Qua mi giochi i nervi, ma ne va di tutta la mia integrità. E poi basta con sta scusa di essere pazienti. È pioggia sempre, la senti, mi avverti. Esci per la strada e ti allerti, mentre cerco tracce dei dispersi. Mentre questa pioggia che non smette manda all'aria i miei discorsi. لا حل الرسم الوشم بصدري واكتب المقامة عكل جدار بعقلي يا اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي يا اخي لن تختفي يا اخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حريه مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رساله حره ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحره اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمه الا بوحده الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي بالايادي بساعد محم الموت مضابط بالصوت ورافض السكوت وصاحب علم الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقام بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت الدموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى الحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض e 32 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata e dalla Palestina occupata e chiediamo scusa ovviamente al buon Nicolas per aver sfumato la sua voce ma tanto sappiamo tutti che è noioso e quindi non importa. Facciamo un attimo un cambio di microfono e ritorniamo immediatamente in e quindi rieccoci in onda e ricordiamo immediatamente i contatti della radio www.radiodefault.it dove potete trovare le nostre iniziative, il nostro palinsesto, le registrazioni, le repliche delle nostre varie trasmissioni oppure potete potete andare sulla nostra pagina Facebook Radio Default dove potete essere aggiornati in tempo reale su quello che accade nella radio e quello che viene trasmesso. Oppure c'è il nostro contatto Skype, radio.default, dove potete aggiungerci per fare interventi, lanciare minacce, imprecazioni. Chiudiamo con con l'invito ovviamente a venire sempre a trovarci fisicamente negli studios di Radio Default a Genzano di Roma, in via Guidobaldi 56, dove potete bevere una birra e anche sostenere così questa radio che non campa di aria ma campa delle sottoscrizioni di chi la sente e di chi la vive. puntata oggi in cui mandiamo in onda il nostro consueto giornale radio e poi manderemo la replica dell'intervista a Shad Abu Salama, che è venuta nei nostri studios per presentare il suo libro Palestine from My Eyes, edito dallo Russo Editore. E quindi andiamo con la sigla del giornale radio. Governo di unità nazionale, inascoltata la sinistra. Secondo l'agenzia di stampa Man, entro la serata di giovedì 29 maggio il presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas dovrebbe rendere noti i nomi dei ministri del nuovo governo tecnico di unità nazionale che dovrebbe segnare la continuazione con il governo. Secondo le indiscrezioni, il capo dell'esecutivo dovrebbe rimanere il professor Rami Abdallah, che dovrebbe assumere anche la direzione del Ministero dell'Interno, mentre si sta ancora discutendo sulla figura del ministro degli esteri Riad al-Maliki, fortemente sostenuto dalla Hamas. Il compito del nuovo esecutivo sarebbe di organizzare entro la fine dell'anno le elezioni del cosiddetto Parlamento, che dovrebbe governare la West Bank e nella striscia di Gaza. Sui negoziati non sono mancate le accuse da parte dei due principali fazioni di sinistra, il Fronte Popolare e il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, che lo scorso 20 maggio hanno accusato Hamas e Fatah di non aver coinvolto nei colloqui le altre fazioni e di essersi limitati a chiedere le liste di eventuali tecnici da cooptare nel prossimo esecutivo. Sebbene questo evento politico potrebbe porre fine alla divisione sorta nel 2007 tra le due principali organizzazioni palestinesi, non si può in considerazione di esaminare la frattura più grande, cioè l'accettazione degli accordi di Oslo nel 1993, padre di tutti i contesti successivi. Passiamo ad Al-Quds, Gerusalemme, dove l'occupazione reprime la contromanifestazione del Jerusalem Day. Il 28 maggio l'occupazione ha disperso i manifestanti palestinesi che protestavano presso la porta di Damasco contro la manifestazione sionista del Jerusalem Day. Durante la carica sono stati arrestati 9 manifestanti, mentre decine sono rimasti feriti dai manganelli e dai gas lacrimogeni. Il Jerusalem Day è la festività sionista che ricorda l'occupazione della città del 67 ed è vista come una provocazione dai palestinesi gerusalemmani, che spesso devono difendersi da veri e propri poveri. Dopo la carica, la polizia ha impedito alle ambulanze di raggiungere i feriti e ha assalito le troupe giornalistiche presenti. I manifestanti sionisti invece hanno assaltato i negozi palestinesi del settore orientale della città. E Netanyahu: non cederemo mai Gerusalemme. Il primo ministro sionista Netanyahu, durante una visita a una scuola religiosa ebraica, ha dichiarato che il suo governo non cesserà l'occupazione di Al-Quds. Gerusalemme è stata riunita 47 anni fa, ha dichiarato il politico, e non verrà mai più ridivisa. Stiamo salvaguardando il cuore della nazione e non possiamo dividere il nostro cuore. La città, occupata durante la guerra nel 67, è stata annessa all'entità sionista nell'80 e poi dichiarata capitale dell'autoproclamato Stato ebraico. E passiamo alla West Bank, ad Al-Khalil, dove l'occupazione arresta 4 bambine. Martedì le forze d'occupazione hanno arrestato 4 bambine del villaggio di Tuba, nelle colline a sud di Al-Khalil, accusandole di aver rubato delle ciliegie. Le bambine, le cui età vanno dagli 11 ai 15 anni, stavano tornando da scuola quando la polizia sionista le ha arrestate con l'accusa di aver rubato delle ciliegie dal giardino di un colono. Dopo essere state trasferite nella stazione di polizia di Al-Khalil, sono state tenute per 4 ore in stato di fermo, senza essere assistite dai genitori, per poi consegnarle alla polizia dell'autorità palestinese. E passiamo agli aggiornamenti dall'entità sionista, dove ci sono nuovi attacchi contro gli abitanti di Bacca al Garbia. E mercoledì degli estremisti sionisti hanno danneggiato 8 veicoli palestinesi nella città di Bacca al Garbia, una città dei territori palestinesi occupati nel 1948. Fonti locali riportano che la squadraccia, probabilmente appartenente al gruppo Price Tag, ha lacerato gli pneumatici dei veicoli e hanno danneggiato le carrozzerie. Price Tag è un gruppo di estremisti sionisti impegnati in azioni intimidatorie contro i palestinesi e le loro proprietà in West Bank e nella cosiddetta Israele. Le loro azioni sono state addirittura incluse anche nel rapporto sul terrorismo redatto dal Dipartimento di Stato statunitense. E passiamo al fronte delle carceri, dove si estende la mobilitazione contro la detenzione amministrativa. I politici in sciopero della fame contro la detenzione amministrativa sono diventati 350 ed una quarantina sono già stati ospedalizzati. I legali del gruppo di sostegno ai detenuti a Damir hanno dichiarato che le autorità carcerarie sioniste stanno facendo pressione sui detenuti in sciopero affinché rompano la loro mobilitazione e si segnala che è stato negato loro l'accesso al sale, elemento nutritivo importante quando ci si astiene dal cibo. La detenzione amministrativa è una pratica legale risalente al mandato britannico che permette la carcerazione per 6 mesi prorogabili all'infinito senza prove e senza alcun processo. E passiamo alle notizie dagli esteri, alla Svezia, dove è stato negato l'ingresso nello spazio aereo a Shimon Peres. Lo scorso 11 maggio le autorità svedesi hanno negato all'aereo presidenziale sionista il permesso di attraversare il proprio spazio aereo. I funzionari svedesi hanno dichiarato che lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno dell'entità sionista, non aveva seguito le procedure corrette per richiedere il sorvolo, costringendo così l'aereo di Shimon Peres a elaborare una nuova rotta per giungere in Norvegia attraverso la Danimarca, facendo così arrivare lo statista sionista in ritardo alla sua cerimonia di accoglienza. Belle notizie. (Susurra) E passiamo purtroppo all'Italia, dove Luigi De Magistris procede con la normalizzazione con il sionismo. E in questi giorni il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, si trova in un tour regionale del Medio Oriente che lo ha visto visitare la Giordania, la West Bank e oggi l'entità sionista. Il politico italiano, già sostenitore del conferimento di una laurea honoris causa al presidente sionista Peres, ha dichiarato di voler creare un coordinamento tra gli enti locali del Mediterraneo, compresi quelli dell'occupazione, per rilanciare il tema dello sviluppo locale in Terra Santa, proposta sostenuta anche dall'Unione degli Enti Locali Sionisti. Inoltre ha dichiarato il proprio sostegno a favore del diritto degli occupanti di vivere in sicurezza entro i propri confini. Mortacci tua. E passiamo agli Stati Uniti / Inghilterra, dove Bill Gates disinveste da G4S. La Bill & Melinda Gates Foundation ha dichiarato di volersi disfare delle proprie azioni della compagnia di sicurezza inglese G4S, valutate in 110 milioni di sterline. La G4S è una compagnia di sicurezza privata coinvolta nel sistema di apartheid in Palestina, soprattutto nelle carceri dove sono detenuti più di 5.000 prigionieri politici e contro cui è nata una campagna di boicottaggio internazionale. E passiamo alle iniziative. 5 giugno, proiezione del film Ritorno ad Haifa. Il prossimo 5 giugno alle ore 18 l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e la Rete Romana di Solidarietà col Popolo Palestinese proietteranno il film Ritorno ad Haifa di Kassem Awal, tratto dall'omonimo racconto di Ghassan Kanafani. La proiezione avverrà nella sala Zavattini della Fondazione AMOD, in via Ostiense 106 a Roma. E quindi si conclude così il nostro giornale radio, il nostro consueto giornale radio. Noi ora vi lasciamo a un piccolo stacchetto musicale e poi manderemo in onda la replica all'intervista di Shahad Abu Salama, autrice palestinese del libro Palestine from My Eyes, edito in Italia da Lo Russo Editore. E quindi vi lasciamo uno stacchetto musicale. Questi sono i Ramallah Underground. Mihnil Kaif. عدد الموت هون مش سامع ولا صوت اتس التليفون اسأل لانه ولا حد سائل سواء سياسي او دبلوماسي قاعدين على الكراسي وبتحدثوا بروحوا بحطوا روسهم وبتمددوا بالبيوت في لبنان وغزة عم بتهدفوا اجا الوقت نرفع بقبوص لكل العالم لانه راح يضلوا يحكوا وعمره ما حيعمل فايش بدنا نضل نقنع ونستنى بتمنى بس عالفاضي من زمان نسيوا عنا صعب تمسك حالك لما تشوف الضوء قدامك اللي قامك واللي شالك مش مستغرب إذا أفكار جهنمية عم تدور في بالك ناس بتنادي على الدنيا بس الدنيا نامت وحتى إذا قامت ما حتسمع كلامك ما حتسمع كلامك هون يوم معاك مية عليك حواجز حواليك كلبشات عقديك قولي شو سويت ما بدي فوت في الحيط يا ريت بس انا فايت هيك هيك حياتي عجب بس كليت وهلا فلت الجنزير اجا الوقت ادعس بنزين ابدا الشد ابدا من حكي لكل النواحي لانه كلماتي سلاحي بدون يشوعوا الاهالي واحد واحد اتنين اتنين تلاتي تلاتي عم يبهونا هذا ننزل عالملاجئ قبل ما يشوفونا بيقصفونا وين ما رحنا بس حياتهم ما بتحونا صامد لاخر لحظة صواريخكم صابونا ورؤساء العرب سعبونا تركونا وهربوا لعند عدونا لانهم ما قدروا يعدونا وعدونا في المستقبل بس شوف لوين جابونا 2007 عالم بيمشي دغري واحنا فجرونا جوعونا بدهم ينسونا قعدنا سنين نبني وإجوا فجأة هيك هدونا هددونا وخوفونا بالديمقراطية سممونا حتى نعيش حياة طبيعية ما خلونا حطونا عطت النار ونسفونا دمرونا نشفونا دمنا كل هادو لسه ما خلصونا من همنا بحاول اطنش بس السياسة بتشدني بقولها افلتي ما بدي بتقولي انا جزء من حياتك مش هتقدر تمشي ضدي مش هتقدر تمشي ضدي بحاول اطنش بس السياسة بتشدني